siamo molto felici, diciamo, l'anno scorso abbiamo festeggiato la decima e ora abbiamo insomma rilanciato, ormai partiamo insomma verso i venti. Non lo dire, non lo dire. Sì, non lo diciamo troppo in anticipo, ecco. Partiamo invece con questa edizione, appunto, con l'anteprima che sarà il 29 giugno, la notte a colori. Cosa succederà? Allora, il 29 giugno ci saranno i vernissage delle mostre che sono quest'anno 19, sono in diversi luoghi del Pigneto e arriviamo quest'anno anche fino a Tor Pignattara. Siamo molto, diciamo, contenta di avere delle artiste di paesi vari, quindi ci sarà Lea Caterina Meyer, Egle Pellegrini, Sheila Nagig, Liana Trabulsi, Sabrina Annaloro e Sofia Meluso, Shyam Ghiet, l'ho pronunciato malissimo ma è difficile da pronunciare, Giulia Anania, Anita Rossini, Anna Arnesen, Elena Ketra, una collettiva, diciamo. Le mostre sono sia all'interno di luoghi aperti al pubblico del quartiere, quindi librerie, galleria, bar, ma sono anche nei luoghi creativi stessi, quindi all'interno di studio che durante il resto dell'anno, diciamo, a parte in qualche occasione, sono chiusi, quindi è anche un momento, diciamo, prezioso per poter scoprire direttamente in loco dove avviene il processo creativo delle artiste. E poi ci sarà anche Maria De Sanctis, Giulia Sardà, Gianino Dari e Dina Omut, Stefania Sfighi, Rocío Schiamaman e infine una collettiva di SMAC. Insomma, già solo per l'anteprima mi avete citato tantissimi nomi, appunto, di artisti e artiste che saranno presenti, ma veniamo anche al festival, come dire, vero e proprio, no? Che sarà il Assolutamente. 4, il 5 e il 6 luglio. Da cosa sarà caratterizzata questa undicesima edizione? Diciamo, su questa edizione chiaramente diciamo, il festival Bande Fam non è un festival che vive nel nulla, nel senso che è un festival che ovviamente è impregnato di quello che viviamo, insomma delle nostre vite, dei nostri immaginari, delle vite che facciamo tutti i giorni, anche del contesto in cui viviamo. Stavamo giusto prima, insomma, provando a buttare giù due righe per i comunicati stampa e per l'apertura del festival. Ovviamente è stato impossibile non nominare la fase storica in cui siamo, con chiaramente l'avanzata delle destre, con diciamo, tutto lo spazio che stanno prendendo i movimenti antiscelta, c'è un genocidio in corso in Palestina, pianeta al collasso e chiaramente la guerra alle nostre porte, quindi tutti questi contenuti oltre a caratterizzare insomma la scelta del programma, nel senso che ci sono un sacco di incontri, anche di mostre che abbiamo scelto di dare molto spazio alla resistenza palestinese e anche diciamo a provare a offrire uno sguardo sull'arte, sull'illustrazione, sul fumetto che non sia esclusivamente bianco, esclusivamente eurocentrico e esclusivamente occidentale. Quindi questo l'abbiamo fatto sia coinvolgendo artiste, ma anche coinvolgendo luoghi e persone che presentino gli incontri. Quindi di tutto questo, insomma, si trova traccia, ne siamo felici perché comunque Bande Fam, come sempre, è un festival che punta a dare spazio, a dare voce, a dare visibilità a tutta una serie di narrazioni, soggettività, persone che si collocano al di fuori, al margine e in opposizione alla norma. Quindi ecco, questo insomma è un po' il filo conduttore sempre di Bande Fam e ovviamente ogni anno, in realtà in questi anni è sempre peggio, ci troviamo di fronte a una serie di sfide, di lotte a cui insomma ci relazioniamo. Ecco, vogliamo fare anche qualche nome appunto degli artisti e artiste presenti il 4, 5, 6 luglio. Esatto, quindi come anticipavi tu, inizieremo l'apertura del festival, sarà il 4 luglio in Via Pesaro a Roma, intorno alle ore 18:30. Qualche nome, ovviamente Bande Fam ospiterà presentazioni di fumetti, ma ospiterà anche tavole rotonde, live painting, dialoghi o appuntamenti dedicati ad artiste o comunque personalità del mondo del fumetto e dell'arte che hanno fatto la storia. Tra i fumetti possiamo nominare Corpi Invisibili, che è uscito quest'anno per Becco Giallo, e quindi ospiteremo Michela Rossi, Meo e Antonia Caruso. Ospiteremo una tavola rotonda su cosa significa un approccio e un posizionamento femminista nella curatela, nel mondo dell'arte e della fotografia. Ospiteremo Gianna Trabulsi, che è un'artista e designer libanese, che ci porterà appunto nel suo mondo, nel suo lavoro, nel suo percorso artistico e politico a Beirut e non solo. Ci saranno alcuni focus su artiste che hanno fatto la storia del fumetto in Italia, per esempio Pat Carra, che sarà presente e intervistata sabato 6 luglio. Ci sarà un grande spazio per le fanzine, le zin, come sempre Bandefam ha a cuore il focus sulle autoproduzioni, e quest'anno con Giulia Valicelli e Daphne Boggeri presenteremo un volume che si chiama Out of the Grid, Italian Zine tra il 1978 e il 2006. Ci sarà, come dicevamo prima, molto spazio sia nella notte a colori e quindi nelle mostre, le 19 mostre che Sara nominava prima in quartiere, sia con la presentazione di Tracciato Palestina, che è un volume di Elena Mistrello che racconta appunto il suo viaggio percorso in Cisgiordania di qualche anno fa. Per andare avanti, un altro piccolo evento organizzato sempre alla fine delle serate di Bandefam, a cui teniamo molto, è quello dei live painting. E quest'anno per venerdì 5 abbiamo deciso di utilizzare le parole tratte, le parole Siero Coinvolt, tratte dal volume, dal book block di Eris Edizioni Siero Coinvolt, con live painting di Elena Mistrello, Lucia Dora e Laura Scarpa. Siamo appunto arrivate al sabato in cui parleremo di violenza maschile sulle donne, lo faremo con Stead, che sarà ospite per la prima volta a Bandefam. Presenteremo con Noa Schiatti e Leonora Caruso il loro ultimo lavoro, che è Sangue, uscito adesso per Bao Publishing. Come anticipavamo prima, ospiteremo Rossio Kijamaman, che con Malek Bari dialogheranno sul lavoro e sul, lo definiremo, processo di migrazione di Rossio e sua madre da Latino America a Barcellona. Finalmente ospiteremo Hank Feutenberger, sono anni che l'aspettiamo, quest'anno esce per Coconino Press con Compagna Cuculo e dialogherà con Laura Pugno. In ultimo, ma in realtà all'inizio del primo giorno del festival, il 4 di luglio, ospiteremo Anna Arnesen. Sì, su questo incontro in particolare ci piaceva un po' insistere. Lei è un'artista svedese che ha realizzato, in realtà non si tratta di un fumetto ma piuttosto di un libro illustrato che è pubblicato da Orecchio Acerbo e che è davvero bellissimo, che racconta un po' il mondo nel quale viviamo alla soglia, diciamo, o l'epoca che stiamo vivendo rispetto alla situazione ecologica, e lo fa attraverso una scelta, diciamo, di entrata nel tema personale, regalando, diciamo, a chi legge un approccio pittorico estremamente suggestivo. Le parole sono molto poche ma sono di grande impatto, quindi rispetto a quello che dicevamo prima della presenza del momento storico pesante nel quale siamo, abbiamo provato un pochino, attraverso i testi che l'editoria e non, diciamo, ci propone quest'anno, di trovare anche dei modi per a livello di immaginario avere delle rotte che siano un po' aperte e che scelgano strade altre rispetto semplicemente alla disperazione che un po' sentiamo. E su questo anche la tavola rotonda insieme a Lorenza Accardo, che dialogherà con Lina Pallotta, Raffaella Perna, Cecilia Milza e Michela Becchi sul come costruire delle curatele femministe, ci sembra estremamente interessante. Poi volevo dire che sulla facciata di Tuba, tra le mostre, l'unica che non abbiamo citato, ci sarà un elaborato grafico di PGB che speriamo, insomma, piacerà a chi passeggerà sull'isola pedonale del Pineto. Allora, innanzitutto, cioè, vale la pena ricordare che Bande Femme è un festival tutto a ingresso gratuito, sia alle mostre sia agli incontri, quindi non c'è neanche bisogno di prenotazione, basta, insomma, seguire gli appuntamenti e... tranne per i laboratori, però invece, diciamo, sia per il vernissage delle mostre che poi per le presentazioni in strada l'accesso è libero, quindi semplicemente vi aspettiamo. E per, insomma, conoscere il programma, che a breve uscirà nella sua, insomma, uscirà per voi, sia per avere l'elenco delle mostre eccetera, potete seguire i nostri, cioè, sia il sito di Bande Femme, e poi ci sono i canali social, quindi su Facebook Bande Femme, su Instagram la pagina della libreria Tuba.